c'ho il desio saper quei cose. Roma di me favella, e se contenta e dell'amor ch'al mio regnante io porgo. Il dir forse che Roma tesse l'ori al tuo nome, arte saria d'adulator, non di vassal fedele. Quell'oprio fa che di biasmar son degne. Son le lascivie tue, purtroppo indegne. Qui per ornarti il fianco, lo stato fregio io servo. A te pare giunge, a miglior loco fino serbiam nostri discorsi. Al tuo gran cenno lungi porto il mio piede. Basti per ora ridire a chi vil maglia cerca imporre al mio nome, che se ben non ancora il via sul trono, dal regnante di Roma, amata io sono.